attento pompogno, bili bili bi. Ciao Gianni, Marco, mi copi? Certo che ti copi, certo che sì. Ehi, c'è anche un segnale che non riesco a vedere perché non c'è smitta. Avanti, chi è? Vabbè Gianni, sto usando un omologato Intec, però mi sembra che stia uscendo basso di radio. Mi sono autoascoltato e non devo tirare sul volume troppo. Oh, che già esce bene Marco. Sono una radio normale, ma esce bene, la tua voce è naturale. Che strano, vabbè. È quello che lasciavo in macchina, mica non vale niente. Che ho detto che anche se me lo rubano, pazienza. È quello senza smettermi. Senza smettermi. E come fa a dare il segnale allora? Quello è il bello, non ne dai di segnali. Ha l'altro parlante frontale e tutto, due manopoline, canali, pulsanti, AM/FM, basta, non c'è altro. Così è fatto già, sempre omologato ci è. Semplice, magari è anche buono da mettere in macchina, nel senso che ci sta da tutte le parti, dai. Sì, magari con un amplificatino rende meglio, dai. Magari con un linearino rende anche meglio in macchina. Certo che sì, ma io sono un po' indeciso. Volevo fare un mezzo impianto, non proprio un impianto, un mezzo impianto, l'impianto elettrico fisso e poi l'antenna che si possa togliere. Me l'ho portata la macchina alla Fiat a fare il tagliando e me l'hanno tutta lavata. E come hanno messo il numero sopra con la calamita mi hanno graffiato la caputina. No, che idioti. Ho capito, sì, il numero per... C'è già la graffiata, già l'avrei fatto notare, guarda. Dice, casomai me la graffio io la mia macchina, però che la graffiate voi. Va bene, che altro c'è qua? Vedo che qua ne sa per scendere l'aria, il cielo è nero, zona Alghero. Hanno fatto un lavoro e ne hanno distrutto un altro. Sono riuscito a farmi cambiare tutto il quadro, lo sai. In garanzia? Buono, buono. Se no quello costa un patrimonio. 1500 euro costa. Già ho pagato 270 euro per fare un tagliando di olio, filtro dell'olio, l'olio, filtro polline e filtro aria. 270 euro, non vanno più. Sì, sai cos'è già, siccome la macchina è nuova, finché sei in garanzia lo fai, quando scade il periodo di garanzia vai da un meccanico di fiducia, che ti fa pagare meno per un cambio d'olio e le solite menate, filtro aria, capito? Sono cari. Beh, alla Opel è la stessa cosa, alla Opel sono allucinanti. A me lo dice, erano 350 euro ogni volta che andavo, 350 euro, filtro polline, una lampadina, aggiungevano roba magari che non c'era, poi ci mettono mano d'opera, ci fanno pagare ogni ora, non so quanto si fanno pagare, e insomma, quella che mi hanno dato in sostituzione, Marco, la macchina, la Jeep, c'aveva una marcaturina dietro con faro spaccato e io quando l'ho presa mi sono fatto un giro nella macchina ma non mi sono reso conto, ho guardato le fiancate, le parti e praticamente sono andato al cimitero, ho trovato un amico, mi fa Gianni, ma la macchina te l'hanno toccato, quella che te l'ho prestata. No, guarda, c'era una marcatura più il faro spaccato dietro. Ho detto la macchina che c'ha 10.000 km, nuova, proprio, cioè ti danno le macchine nuove da provare, capito? E niente, oggi sono andato, mi controllo la macchina quando sono rientrato, no? E controlliamo la macchina, facciamo un girettino, guarda e fa, la marcatura col faro, meno male che la macchina ce la conosco, se no il mio collega non aveva manco segnato che c'era questo problema, capito? Mi solito mettono una croce dove c'è, dove è ammaccata, dove c'è qualche problema, no? Mettono una croce. E invece in questo caso qua il collega non me l'ha manco controllata quando me l'ha data. Quindi potevo dire benissimo che l'avessi toccata io, ma non è stato onesto. E io sono qua, dai. Stavo mettendo a posto un po' di roba. Oggi non c'è un'anima, no, io sono un po' che non accendo, quando è? Un paio di giorni, due, tre. E quindi ero in fase calante, ho detto mi occupo di altro, dai. Abusivo. E lui, ma tra le volte, freccando, nessuno mi rispondeva. Adesso è uscito a Pizzo, è uscito a Pizzo Natalino nell'etargo. Ma... io ho acceso adesso, vi ho sentito e sono entrato. Buonasera a tutti e due, dai. Non so se c'è altra gente all'ascolto. Ciao Natali, sto scherzando. E praticamente quando è modulato ha fatto una cosa del genere, ma dipende da te o era frequenza questo rumore? Oh Marco. Dimmi Natali. Ma già siamo sicuri che questo è omologato già. Non mi salvarani a punidrento, no? Perché dubbi hai? E qualcuno mi ha messo la puccia nell'orecchio. E guarda che nell'elenco apparati risulta quello. 40 canali, AM, FM 4 watt, SSD 12 watt. Superstar 3009 della Fiernz Comunicazioni, quello spagnolo mi. Ce l'hai tu questo... come si chiama, questa lista degli apparecchi omologati che risulta a questa, che io non l'ha giù e non l'ha già UDA. Devi andare al MISE, al sito del MISE, e metti apparecchi omologati, ti comparirà molta altra roba. Metti Superstar 3009. Dovrebbe comparire uno della Fiernz Comunicazioni o Proxel, uguale. Natali, ma quello cosa c'ha? Cara di sopra, cara di sotto e tutto. Questo è come il tuo. Però voglio essere sicuro che sia omologato. Aspetta che... al MISE dice che non la fanno più la lista, Infatti non è scaricabile, Natali. Non è scaricabile. E devi inserire tu i dati e ti compaiono le cose attinenti a quella ricerca. E vabbè, allora non mi fido nemmeno più di quella lista. Allora tutti sono omologati e tutti no, non lo so. È come il mio c'è cala di sopra, sotto, tutto quanto, così. No, no, quello ne ha 40. Quello natalino nasce con 40. Com'è questo? Vabbè, tutto, è tutto molto aleatorio, Gianni, per far cadere in errore l'utente, come la storia delle sanzioni del Covid, no? Un regolamento nazionale, regionale, poi il sindaco lo stesso fa un subregolamento suo, alla fine trovano il modo sempre per fare la sanzione. Si chiama mafia, Lo ripeto per l'ennesima volta. Marco, ho letto l'articolo oggi su internet che il coronavirus avrà una seconda fase di... come si chiama? Di gente contagiata, eccetera, eccetera, verso dicembre. Hanno ipotizzato un secondo picco. Io ti dico solo che una sera sono uscito con qualcuno in macchina, siamo passati via Bellieni, via Angolo, via Roma, e abbiamo visto ammassate le persone ai bar, tutte una attaccata all'altra, ai tavolini erano uno attaccato all'altro, le signorine e i signorini, a 30 centimetri, non un metro, e infatti in quel locale, se guardi la Nuova Sardegna, gli hanno fatto due multe in una serata, una sul presto e una verso le 2:30, due contravvenzioni, stesso locale, perché non se ne fregano tutti, clienti e gestori. Quindi Io un altro mese di clausura o due non me lo voglio fare per colpa di terze persone che se ne fregano, capito? Sempre che esista questo virus farlocco. Esistono qualche cosa, esiste Marco, se è morta tutta quella gente non penso che sia morta così. No vabbè, però tutti morti di Covid, però senza fare autopsia. E uno dice, no, basta la radiografia del torace, si vede la... Cioè, hanno fatto sparire le salme, manco i parenti la potevano raggiungere, dice. Senza autopsia, tutti morti di Covid, è strano, vabbè. Non voglio fare... non mi piace parlare di sto Covid. Ci hanno fatto già il lavaggio del cervello alla televisione, con questa storia. Natalino, riprendi. Sto cercando... la lista a vedere se c'è. Boh. Però Natalino, non diventare paranoico con questa storia dell'apparecchio omologato, se no sai, tipo, bussano, ecco, un attimo che sono nudo, attacchi il polmar, se hai dubbi, ecco che è omologato. E non deve diventare una fissazione però. Allora sai cosa mi fanno se mi trovano con un baracchino che non è omologato? Tu non hai idea. Ascolta, persino al sito di FLQ Elettronica, che me l'ha venduto, c'è scritto apparecchio 40 canali omologato, AM, FM, SST. Cioè, non, la targhetta CE non basta, cosa vuoi che ti dica, Natali? Vabbè. Ma chi è che ti ha messo la paranoia, Natali? Quello lì è omologato, basta, c'è scritto dietro, omologato e CE, oh, basta quello. Tu non lo toccare, lascialo così, vedrai che è omologato. Se no sarà omologato. Natali, lo sai che mi hanno cambiato lo strumento? Meglio così, almeno sei sicuro che è nuovo. E allora l'hanno fatta arrivare. Quello che me l'hanno trattenuta molto la macchina. Vabbè dai, comunque quella marcatura c'era da prima, solo che non l'avevano segnata. Registrate il break un attimino. Solo che non l'avevano segnata nel foglio quando me l'hanno dato la macchina in cortesia, e meno male che se l'è ricordato quello che ha fatto l'accettazione, se l'ha ricontrata e c'ha questa qui, manco segnata gliel'aveva, meno male me l'ho ricordato io che c'era la marcatura, se no gliela facevano pagare. Avanti break. Natali l'è copiata l'Ubumi e Natali non risponde, adesso sta facendo qualche altra cosa, riprendi ma. Eia. Comunque c'è, basta mettere su Google MISE, apparati omologati, a parte che mettono anche cose approvate tipo Bibanda e ti Superstar 3009, ti compaiono, aspetta che provo io, dai, sennò qua. Ciao Nico, scusa che sono distratto, adesso intanto inizio a cucinare qualcosa. Ciao Nicola, ben entrato. E allora Nicola, l'hai comprato tu questa antenna e questo apparecchio? L'hai comprato l'apparecchio omologato con l'antenna? A chi è che sta mettendo la portante? Al solito già, portante? Nico, nel piano coperto, non qua naturalmente. 9:30 qua arriva. Zona vostra. Vabbè, solita storia, dai. Sai che ti dico già, io chiudo, no? È inutile accendere, stare in queste condizioni. Troppa gente è rientrata con questo Covid. Va bene, già, chiudo, mi dedico alla cucina, dai. Ciao Nicola, Natalino, ciao a tutti. Ci sentiamo in migliori condizioni, ciao. Non le dare soddisfazione a questa gente, porca miseria. Sta tranquillamente. Spostiamoci Marco, spostiamoci di 10. No, no, a parte che Nicola non ce l'ha. Queste 40 canali, proprio AM/FM, non c'ha nulla questo. Guardati la foto. Dai, un'altra volta, perché mi scoccio così. All'infinito si continua poi, boh. Poi si sa chi è, non si sa chi è, tutti sanno, tutti non sanno, boh. E non cambia mai nulla. Ciao già, chiudo, ciao. Oh, aspetta Marco, l'ho trovato. c'è PMS Communication S.A. numero, sì sì, c'è. Ecco, allora non te lo puoi strappare, così dimostri che è omologato. Se ti dicono qualche cosa ti... non fa stampare. Sì, fa. Adesso lo stampo. Ne stampo un paio di coppie, così vado a Gamarco. E lo sottolineo in verde o con qualche evidenziatore, così almeno sai che è isso. Poi vabbè, anche è vero che in Europa cambiano le cose da un momento all'altro, L'indomani si svegliano e dicono, ma 12 watt in SB non vanno bene, facciamo 4, come la MFM. Dopodomani si svegliano e lo rimettono a 12 o una via di mezzo. Poi è tutto molto aleatorio, capito? Cara gara, buon pomeriggio, riprendi. Io sto evitando, anche perché al bar ci beve tanta gente, gli danno una sciacquata alla tazzina e non la mettono manco nella lavastoviglie a disinfettare, gli danno una sciacquatina sotto al rubinetto e scappa, e poi i bar non possono darlo al banco, io ho visto gente al bancone bevendo, però cioè, ho visto diverse di cose che non sono in regola, là. Non ho capito, Falco, Colubovic. Un attimo, il doppio bip. Marco, mica le ho stampate. E c'è. Così a Romanco siamo tranquilli. Gianni, la vuoi tu la coppia? Se ce l'hai, dammela, già serve anche a me. Era Alessio, comunque, Alessio Pomponio, che stava praticamente, si è avvirato l'apparecchio, usciva con un watt, ma vuole solo regolato, vuole messo nella città giusta, nel paese giusto, e ti esce con il watt che deve uscire, perché quello lì si può programmare per diversi stati, capito? Probabilmente non l'aveva programmato per quello stato, ma lui dice se a me mi vendono un apparecchio, siamo in Italia e quindi me lo devono mettere in italiano, non devono mettere in un altro stato, ma lì li danno come capita, poi te li arrangi tu. Avanti, bip, doppio bip che vuole entrare. Pomponio, sei tu. Boh, adesso non rispondo. Antonello. Vabbè, non risponde, ok. Se vuole rispondere già chiama attorno. Così almeno sono sicuro. Se vengono qua, ma questo non è omologato, no? Rivolto, mi ecco, questo è lo sviluppo economico, il ministero che lo dice. Ma qua se c'è solo c'è un numero appresso e non c'è scritto omologazione, questo e quest'altro. Invece io c'ho proprio il foglio del ministero, così non mi buoni di nulla. Perché a me devono venire a controllarmi e devo essere sicuro di quello che dico. No, allora sul sito del MISE compare un numero di protocollo, però non, dietro c'è scritto solo CE0341, molto generico, più il nome dell'apparato, e boh. Alessio! Ma forse non è Alessio, sennò avrebbe risposto. Avanti, chi è col doppio bip? Negativo, boh. Arriva 9.30 qua, E magari è zona tua, è qualcuno che sta tentando di uscire ma non esce di radio, boh. O che vuole evitare Alessio per incolpare a lui, capito? Ma Alessio non ti arriva 9.30 a te, no, già. E a tutti i dini, che con attacca TV 2001 mi arriva 9.30 qua. Ah, così è. Se no non dovrebbe arrivare con quel segnale. Ma vabbè, lasciamo verde. Vuol dire che qualcuno che vuole disturbare o non sta uscendo di radio. Porca miseria. Proprio vero che la roba inza che è cacca. Ma non è vero, l'FM500 si andava bene. Buono quello. No, ti spiego. notato adesso, adesso che l'ho usato dopo tanto, che la guaina in prossimità del microfono si è spaccata, rischiavo di rompere i cavetti, anche i cavetti interni. Cioè, fate gomme buone, almeno importate apparecchi con gomme buone, la guaina del cavo spiralato, che schifo. Ma appunto, lo stesso problema anche della riserva, ma lo stavo dicendo l'altro giorno, che dopo tanto tempo che c'è un microfono fermo, le si sfalda tutta la guaina della spiralata. Guarda, già, in nessun apparecchio mi è capitato, solo con questo Inter che già poco tempo dopo ho comprato, vicino allo spinotto microfonico. E adesso qua in prossimità del microfono, adesso mi tocca, che palle, tutto nastrarlo come l'altro, fare un malloppo di nastro, se non mi... Gli piglio il DMC 507 e li metto quello. Infatti. No, io la verità non ho mai avuto di questi problemi, però me lo stava dicendo Antonio, vabbè, dice, è stato un bel fermo questo microfono, c'è, praticamente la plastica cade, capito? Come la tocchi cade, si è seccata, boh, non so come spiegare, si è tutta sfaldata. Magnurata, diritti, sassarini. Meno male che è quattro poli, questo è quattro poli e ha la stessa piedinatura del 3009, cosa molto utile. Infatti posso prendere un altro microfono e metterlo qua per dire. Vabbè, non adesso, dai. A 10 giorni di ascolti con la piccola modulazione qua della città di Sassari, come più. Vabbè, fra. Ciao Gianni, chi c'è questo canale? Natalino? Eia, buonasera, buonasera, il piacere che mi fa, avanti Natalino. Ciao Fra, buonasera. Ehi Natalino, dopo ti faccio una bassa, scappa, come ti sto arrivando Natalino? Cambio? Sto provando l'ara 68, capo? Mi sta arrivando 95 Radio 5, e io come ti arrivo? Però c'è troppo che Natalia, 9-10, radio 5, buona, perfetta e pulita, K. Sto provando questa la 68 a vedere come stava andando, tutto qua, cambio. Ah, è troppo ecco. A te abbasso, capo. Guarda un po', dopo. Ripete troppo, la ripetizione di ripetizione, ripete troppe volte. Cesso, tutta aperta la guaina, tutta aperta, che schifo. Ciao Franco, mi copi. Ciao Marco, buonasera, me l'ho tolto l'eco, mi sono rotto le palle di quest'eco, non mi piace. Sì Marco, Santiago 9, Radio 5, perfetta, pulita qua. Così vai bene, Fra. Ma infatti già, è fastidioso, non mi piace. Lo lascio così, il microfono normale e va più che bene. Com'è adesso la radio, va bene? È buona la radio. No, vorrebbe regolato, Fra. Vorrebbe abbassato e regolata la ripetizione. Ripeteva wow. Devo aprire il coperchio, non ho voglia adesso di fare niente. Lo lascio così, me l'ho tolto adesso, l'ho disattivato. Va bene così. L'importante è che la radio sia pulita e che vada bene così, dai. Ok. Come ti sto arrivando, Gianni? Aspetta che mi metto gli occhiali che sono ci. Prova! Ora 1, 2, 3, 4, guarda questo passaggio, Questo è il primo passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 3. Così forte arrivo. Vabbè dai, stiamo mettendo un po' di vato, adesso lo diminuisco. Natalì, da te, K123. Sono a te a casa tua. K, sono a casa adesso. Non sei così, per quello che arrivi forte, se sei in campagna non arrivi con questo segnale. Sei sempre arrivato così anche senza attaccare. Vabbè, sto usando un attimino pure, una pustanera di quelle piccoline. Quella che devi dare a me. Ma ti piace un bel questa antenna a te? No, ti spiego, siccome ho la macchina nera, mettere un'antenna di un altro colore non mi piace. Io ho comprato la base magnetica e la stavo cercando con l'antenna, capito? per metterla nella base magnetica, ma non se ne trova, non più, capito. Oh, di questa non ne trovi più. Questa me l'aveva data Claudio a me, ce l'avevo nella macchina questa antenna qua, e non mi ha dato mai problemi da quando ce l'ho. Lo so, era buona da quell'antenna, mi piaceva per quello. Siccome tu in macchina non te le devi mettere, cosa ti rifai? Ma io adesso la sto utilizzando a casa perché sul tetto non ne ho antenna, capito? Vabbè, te la compri, quella che c'ha Marco costa 90 euro, la 50 costa la fesseria, 90 euro, non mi danno più neanche l'antenna, ma... Guarda, la GVC te la compri, c'è l'antenna subito. Lo so, ma io ho problemi qua nel tetto che non posso salire adesso perché ci sono alcune tegole rotte e quindi praticamente fino a quando non aggiustano qua non si può fare niente. Ti do il tetto mio. Scappa, hai capito? E siccome io non ne ho voglia di rompermi le palle con questa di su, se no già l'altro giorno stavo andando alle mani per questa storia qua. Storia. Vabbè, ma cioè, come parlare si parlano in più. Lo so già, però fino a quando non si stavano nel tetto, siccome io ci sono salito e ci sono parecchie tegole rotte, c'è anche un buco, capito, che non hanno sistemato, e a questa di su praticamente riscende acqua. Come devono venire dalle rete popolare, devono sistemare il tetto, quindi che fino a quando non sistemano, no, non si può fare niente, capito? Casino. Avanti chi voleva entrare. Buonasera, mi. Ciao, Tony. Ciao Tonino, buonasera, ben ascoltato. Hai capito, siccome che è una rottura di balle quando si i palazzi. Lo so, non lo dire a me mi hanno fatto la lettera, condominio. Tu dici che avevo avuto il suo carattere scomposto io e mi hanno detto se c'era qualche problema di chiamare a loro. Gli ho spiegato la situazione, ho detto che io avevo pieno diritto di montare l'antenna, che il tetto va diviso per l'unico nome, ognuno c'è la sua parte, quindi ognuno fa ciò che vuole della parte sua. Vabbè già, se così già va bene, dai. Io vi saluto perché devo uscire per una commissione. Ciao Natalino, ciao Tonino, ciao anche gli altri amici che sono tutti in ascolto. 73 circolari a tutti, dai. Ce la risente più tardi, magari se coincide. Ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo fra. Ciao Franco. Avanti Natalino. Sto mettendo a posto qua. Rimango un po' in ascolto. Riprendo fra un po'. Ma la barba te l'hai fatta, Natalino? Come? La barba te l'hai fatta. La barba? Certo che me l'ho fatta. E ieri le 3 ore fatte la barba, non te la fatti mai? Già mi raggiuvata. M'ho fatto tutto qua. Mi ho stampato un affare del ministero dove dice che questo apparecchio è omologato a chi non mi fidavo assai. Non fa nulla, no. A chi si vende in idorra mi gattagneggia, ne si no è omologato. Perché l'altro non va bene, quello che ho io, no. Quell'altro omologato esce male. Non si può toccare perché è omologato e quindi no. Me ne ho comprato un altro nuovo, e già è omologato, c'ha 40 canali solo, le bande non funzionano, infatti quando vai a attivarle no, non vanno. Ok, là, ho messo tutto a posto. Meglio così, avanti già. Se non è omologato è un omologato. Tu li sempre col Galaxy stai uscendo? No, con l'altro. Si può sapere cos'è? Si è cancellato, non si vede mai il cupo da canali. Cancellato, ui. Anche il lineare non c'è, anche cancellato, non so da quanto è. Ma poco sei voi. Cosa su voi? Mi sono venduto tutto e sono solo con l'attaccanale omologato. Beati voi che potete fare quello che volete e io invece sono incastrato, maledizione. Io sto sempre comprando comunque già. Sei sempre? Sto sempre comprando. Ho visto uno sparachiodi e sparagraffetti elettrici che me lo so comprato. Un avvitatore e me lo so comprato che ne ho già 3. Salto la vita, c'è le promozioni, via, pigliato tutto. Stamattina mi è arrivato un assegno, Mi ha dato te. E lì ci è finito con la macchina aziendale, dal 23 marzo. Ma è poco. 460 euro solo. Vabbè, meglio di un pugnaluccio. Vabbè. Tony, il trapano dove l'hai comprato? Cazzo, come mi si è ingrippato il coso, come si chiama? Il mandrino. Non so, gurridici da mullallo di nessuna di rimanere, se la giurampaddu. Ma giù dentro di batterie solo. Un black and air che mi guarda. Allora, la Lidl c'è la promozione, c'è l'abitatore che ho pagato 14,90 e c'è anche il trapano elettrico, ma io non l'ho comprato perché ne ho già tre trapani elettrici nuovi ancora dentro la scatola. Ah, l'abitatore mi interessa, quella batteria, il trapano mi interessa. Sì, quello c'è. Se ti sbrighi la Lidl, vai, 14,90. E a quanti volte ho Tony? Poco, la tarico, 4 volte, capito? Per piccoli lavori. Se lo vuoi più grosso costa di più. No, vado da Bricomen a vedere se ne trovo qualcuno almeno 18 volte, così, come quello che avevo. No, cazzo. Lumandrino mi si è bloccato, ma dimmi tu. Non sono riuscito con due pappagalli a mollarlo, a farlo sbloccare. Gli ho sfruttato olio di tutto. No, io ce l'ho preso da una bricola, ha pagato 54 euro però, e non vado a fare del genere. Però è 18 volte. E così me lo compro, dai. Tanto è inutile. E gliel'ho sfruttato già, nulla. Con due pappagalli, non so, riuscite a sbloccarli, chissà cosa cazzo è successo, boh. Gianni, sbloccaglielo tu. Fatelo il zitto, diciamo. Gianni, sbloccaglielo tu. Ah, ho tutto allargato, era, non era stretto. Ma il problema è che magari è caduta qualche cosa all'interno, tipo muro, roba del genere, l'ha bloccato quello, mi l'ha capito, sarà una gazzata, voleva solo messo CRC e lasciato agire, se tu l'hai fatto subito non ti dà di nulla, lo devi fare agire, come hai agito col microfono che c'è col PTT che la schiava, abbiamo messo il CRC, l'ho lasciato agire, il giorno dopo non c'era più nulla. Non sbloccava, è rimasto bloccato, ingrippato, non riuscivi a stringere. Con due pappagalli non sono riuscito a sbloccarlo. Dimmi tu. Ah va. Ce l'ho buttato per quello, ma ho tenuto le due batterie e sono da 14 e qualcosa. Se magari servono a qualcuno gliele do. Black and Decker sono. C'è il caricabatterie e tutto, la valigetta. Si raggio lampado, brava, non dirà tutta chi mi ha pigliato. Infatti adesso me lo compro nuovo. Me lo compro a 18 volt come quello di Franco. Io ieri ci ho buttato il coperchio dell'alimentatore. L'avevo tutto quanto ripiegato, tutto fatto bene, e sono andato a comprare una bomboletta di nero. E mi ha detto, qua c'ho solo nero ad acqua. E va bene lo stesso. Sì, va benissimo. Oh, Tony, vado a sfruttare questa cosa, cazzo, le scendono tutte le gocce, me l'ha fatto tutta a gocce. Dopo 3 ore che ero, cazzo, che lo stavo tutto facendo al vero, cazzo, fatto bene, proprio con la carta abrasiva e tutto quanto, me l'ha fatto tutta a gocce. Scendevano le gocce dalla bomboletta. Sì, quelle sono le bombolette. Qualche cosa, io ho preso una cosa del genere di Abricola. Grazie, lampada, se ho voluto, ho preso l'altra che costava di più e ha sfruttato bene. Perché voi ne sfruttare a 25-30 centimetri? No, io a sfruttare già sono bravo, l'ho sempre fatti bene le cose. Non è quello no il problema, il problema è che ne ha fatto parlare Gucci. Poi, allucinante, guarda. Io lo stavo sfruttando da sopra a sotto. Ce l'avevo appoggiato in terra su due traversine di legno, in modo che non toccava a terra, e lo stavo spruzzando. Ma che mi ha fatto questo lavoro, te li faccio? No, io quando faccio così me lo sul cavalletto, vabbè, io posto ce l'ho, sono fuori anche sul cavalletto e sfrutto. Se voglio spruzzare dentro e fuori, allora cosa faccio? Ci sarà un buco dove va la vite, giustamente metto il filo di lenza, lo appendo a un albero. non c'è problema, è il prezzo che devo dire. Ma sempre verticale, non mi metto mai dall'alto verso il basso, perché devi fare una goccia, quasi no. Può essere che abbia sbagliato io, non lo so, di solito lo faccio sempre in piano, ma ieri non so cosa mi è successo. C'aveva qualche tavolino per farlo, va, appannato, e vabbè, andando così, mi ha fatto venire un nervoso, da gioco tutto. E tu la tarì, ti hai rampato tutto, ti hai rampato. Ah, però sono via una cazzata, che? No, non vedi di sì, a sbloccarlo. Guarda, con due pappagalli ho provato e non ci sono riuscito, Tony. Un'incazzatura nera. Vega, che cosa, che magari è entrato in chili, boh, non lo so, che l'ha bloccato. Non riuscivi a farlo chiudere. È rimasto allargato. Beh, ce l'ho buttato perché, guarda, mi ha dato troppa frutta. Aperto e continuava a aprire anziché stringere. Ti ho detto che ho provato da tutte e due le parti, non ha sbloccato assolutamente. Tony, non sono un pirla, no? Quanto sbloccante a CRC con Romarino pure, ma avanti già. Guarda, se non posso vedere cosa l'ha già spruzzato, CRC, gli ho messo l'olio del fucile, nuda! Non si mette l'olio del fucile. No, no, è proprio visto che vivo fa sbloccare. Comunque gli ho passato il CRC prima. E no, non ha voluto usare me. Allora mi rubio come te chiesto che va a pranco di sotto volte, ma fanguala, perché quell'elettrico ce l'ho in campagna. Ma lui deve fuggire. E non è perché, non è molto sbloccante, capite? È un lubrificatore, non serve nulla, anzi impasticcia ancora di più. Avanti, Nubio. Io ho un olio che è micidiale, Natale, se lo dicevi a me te l'ho gridato. C'ho un olio che a me, forse te l'ha dato anche a te Marco, quello della zona industriale. Quello lì, cazzo, è micidiale, un olio che usano per gli ingranaggi della zona industriale, immagina. E per le catene delle moto lo usano. Olio di paraffina, già lo so, ce l'ho anch'io. Nuda. Gli ho spruzzato il CRC e non c'è stato niente da fare. Ci vuole l'olio del falcone. Forse la bava di falcone ci vuole. Mi hanno mandato la foto di falcone. Chi sei? Anche qua è arrivata e non so chi me l'abbia mandata. Io te l'ho mandata, non ti sei detto il mio numero, ragazzi. Ah, il tuo era. Deve essere che non l'ho messo in memoria, mi sono dimenticato. Scusa Tony, che ero distante, che stavo guardando le antenne nere. Aspetta che c'è un rumore. Ecco. Gianni, stavo guardando le antenne in acciaio. C'è la Sirio Carbonium, che praticamente è acciaio inox, ma lo stilo brunito. È quasi tutta nera. Però per la tua base magnetica ho idea che non vada bene, perché sotto c'è un attacco troppo lungo. Ti mando la foto e capirai meglio. È bella comunque, è 1,40 m. È interessante che vada bene. Il problema è fare questo attacco elettrico, che è un casino, dove fa passare i fili. Appentare, smontare, richiudere, sotto il tappetino, quelle cose classiche che c'è, sono tappeti. Gianni, sì, io l'avevo fatto passare dall'elettrauto, io avrei messo un cavo volgare, lui mi ha messo tutto sotto fusibile, quello che era morto, poveretto, in via Catalocchino, ci è rimasto molto male, vabbè. E passa dove passano i cavi, sai dove ci sono quei gommini che fanno passare i cavi principali? Da lì è passato, no? Con una specie di sonda, no? L'ha infilato, perché se no non è molle il cavo, non riesce a passare. E così almeno è una rottura di scatole in meno. Comunque già, l'accendi i sigari, quello che ti fa quelle scariche, potrebbe essere che non fa bene contatto, mi. oppure un rientro di RF, non lo so. Piuttosto, ma con queste macchine moderne, che hanno centraline elettroniche, insomma è tutto molto delicato, conviene mettere i lineari o rischi di far saltare tutto? Roba del genere, con rientri RF, no? Nell'altra mi è saltata la centralina, ma non so se il lineare o no, ma mi è partita. Non lo so. Un casino, Sì, ma io lo volevo così, intanto magari quando scendo a Platamona così a fare una chiacchierata, se sento qualcuno di fuori a farmi un DX da Platamona, prima era bello perché mi spostavo con la macchina e andavo dove volevo, capito? E adesso devi stare sempre in casa, si arrabbia, invece così, in macchina c'era, ti pigli un po' d'aria buona e tutto gatto. Ma nessuno te lo vieta di uscire, mio, già, perché devi andare in casa? Io già esco, però se sto alla radio non posso uscire, no? Invece se con la macchina esco e faccio tutte le cose. Appunto, ci diamo appuntamento, un fine settimana, ci vediamo e ci prendiamo un caffè a Platamona. Kappa, c'è problema. Il problema è il fatto che questa antenna mi sono fissato di metterla e basta. Comunque c'è anche la GBC, l'antenna nera, Marco, però è corta, non è un metro e passa, è più bassa. Allora, c'è perché ho il dubbio di questa carbonium, perché la tua base magnetica, no? È di quelle dove puoi mettere l'attacco centro-tetto, no? Però ha una certa altezza la base. Queste della, alcune della Sirio hanno questo... Guarda, ti faccio vedere l'attacco, lo faccio prima, dai. È troppo lungo. Potrebbe non starci nella base magnetica, mi. Oh, un Rix lo ha trovato per me. La base magnetica, vabbè tu, Monco Rix. La base magnetica, Marco, è bassa, è di quelle basse la mia, non è di quelle... Quello lì potrebbe andare bene in quella a tre calamite. Però vabbè, ci vuole Gesù a staccarla, boh, poi per un'antenna, a meno che tu non vada a 200, non credo ci sia bisogno, basta una da 14 già, tipo con la mid. Ho capito, ma tu hai preso quella della LEM, quella che è di metallo, è bassa, e andava bene per la turbo, mini turbo. Ehi, è nera, rimane nera, ho scelto la fotografo. Un attimino, te la fotografo, te la faccio vedere. E poi dimmi se è quella della Midland. Mandala anche a me, che io ne ho una larga, che ce l'avevo per l'antenna B-banda. Che se la mia è più larga, ti do quella già. L'ho presa da Fusaro. Sì, guarda, potrebbe essere della LEM, perché Fusaro tratta roba LEM. Ed è particolarmente piatta come base, mentre quella della Midland Universale, per mettere l'attacco centrotetto, è più alta, abbastanza più alta. Comunque dai, guarda le foto che ti ho mandato. Sirio Super Carbonium, è bella perché ha lo stile nero, brunito presumo, quasi tutta nera, non tutta, perché c'ha due piccole fasce che restano cromate. Oh Natalia, ma gente al baracchino ne sta entrando? Sì, già sta entrando. Sei tu che sei assente, caro lei. Sì, lo so, però alti e bassi, Natalia, a me non... Cioè, o faccio troppo, certe sere, tutta la sera, fino a tardi, poi però non... Devo disintossicarmi un po'. E disintossiccheggia, cosa vuoi ti dica? Io mi ricordo, vabbè, anni fa, vabbè, stavo tutta la sera, ti ricordi, dal pomeriggio fino alle 8 di sera, a mezzanotte. Però mi sentivo anche meglio, adesso non me la sento più di stare troppe ore. E quando ci sto poi sono un po' esausto, dai. E io non ci sto tante ore, no? Quando decido di chiudere, chiudo e basta. Vado a cena, mi guardo la televisione, non c'ho goduta la sera al baracchino, no? Sto un paio d'ore. No! Niente Concetta, no! Mattina, pomeriggio, sera e notte magari. No, la sera so pochissimo io al baracchino. verso le 8 chiudo perché devo cenare e devo prendermi le medicine e quindi non... e poi non riprendo più. Una volta cenato mi ho preso il coso, è spento. Alle 8 io lo spengo. Questo me lo condivido. Già è carina questa Sirio, questa antenna Sirio è carina. Magari non sarà di quella che tiene kilowatt, ma esattamente kilowatt in macchina. Molto carina. C'è quel galletto però, al limite puoi mettere anziché il galletto il dado, in modo che a mano non si possa svizzare, se non è facile. Tu l'avevi stretto a pinza, Natali, così è. Con una chiave, c'è entrato una chiave, track e l'ho stretto. Già va bene questa la base magnetica, è come la mia. Eia, sì, Gianni, l'ho vista adesso, sì, è quella della LEM. È abbastanza piatta, mi pare sia da 15 o da 16, e ha quel lieve rialzo dove tu metti la base dell'antenna, quella che poggerebbe sulla cappotta, sì, poi il foro per far uscire il cavo, sì sì, la conosco. Questa diciamo che è l'ottimale per la turbo o mini turbo 2001. E infatti avevo ordinato la mini turbo ma non è ancora arrivata, questa qua cosa si dice, ma devo fare l'ordine da 50 anni, ancora non l'ho ordinata, adesso la chiamo e ci arrivi. Eia, è che Gianni è diventato troppo diffidente per gli acquisti online da quella volta lì. Lui vuole il contrassegno, però non tutti spediscono, anzi, ho notato, molti vogliono prima i soldi, assolutamente, tipo Media Globe, devi mandare il bonifico, solo dopo che l'hanno incassato spediscono la roba. E non solo, ma ti invitano a assicurare la spedizione, perché loro dicono se non assicuri la spedizione noi non prendiamo alcuna responsabilità di pacchi persi dai corrieri o dalle poste, che d'altronde è così, cioè se lo perde le poste, loro che responsabilità dovrebbero avere? Loro più che mandarti il codice di tracciamento. Diciamo che se ordini roba grossa da centinaia di euro conviene assicurare, se ti ordini un alimentatore da 50 euro magari no. Tonino, riprendi? Adesso ti mando il rosmetro illuminato. Eia, dai, lo guardo, io cerco di... tanto quello dobbiamo mangiare, dai. Quindi chiudo qua. Mandalo e me lo guardo dopo, dai. Cappa, te ne togli gli occhi, te ne togli. Oh, stavo guardando la base magnetica di Gianni. Cioè sotto c'è la calamita, cioè sotto la gomma c'è direttamente la calamita. Non gli hanno messo nemmeno il foglio di alluminio, come le Sirio, come le basi Sirio. Oh, manco la mia ne ha di alluminio, Gianni. La mia sotto la cuffia c'hai le magnette. E la mia Midland. Invece le Sirio hanno tutte, quasi tutte le basi, il foglio di alluminio. Per dare una protezione in più, no? Quello lì se si rompe con la gomma, ti rabbini le luci, ti graffia tutta la macchina, è un casino per quello, ma ne sono accorto dopo, se no non l'avrei presa così, anche io mi aspettavo che ci fosse l'alluminio come sempre, invece no, invece non ce n'è. E glielo metti tu? Metto a parte. Sì, già, io per esempio da me nella mia ho messo, siccome si è rovinata la cuffia, ci ho messo un altro pacchi di quello trasparente, tutto affiancato, in modo da coprire, sembra un tamburo adesso, un tamburello, no? E poi la cuffia mezza stracciata l'ho lasciata, tanto la macchina è vecchia quella che ho io, cioè vale più il baracchino della macchina. Quanto è che ve la comprate nuova? No. La macchina, come il televisore, finché non si rompe del tutto, non si cambia. Comunque una cosa è certa, che con le macchine lì vanno bene, sono treni. Sono trendy. Treni, ciu. Però devo stare attento, dovrei far verificare la cinghia di trasmissione, perché quella non avverte, quella o funziona o si spacca di colpo. Se si spacca di colpo, addio, ti piega le valvole e ti distrugge il motore. Quanti chilometri c'hai? boh, 180.000, 190.000, fra un po' arriviamo a 200.000. E non l'ha mai fatto? No, no, non lo so, perché il proprietario precedente non sappiamo se l'abbia fatta. Ecco perché sarebbe molto prudente farla controllare dal meccanico e, se necessario, sostituirla. Se parte quella, parte tutto, è da buttare il motore. Non me lo stai dicendo, un amico mio a me, una volta mi ha chiamato in via di Sicilia, mi ha detto, oh già, me la fa una cortesia, non è che viene a trainare, mi si è fermata la macchina in via di Sicilia, non vuole partire. E gli ho detto, come mai, cosa fa? Dice, vado a mettere in moto e sento rumore di ferraglia. Ho detto, lascia stare, non mettere in moto, non insistere. E sta arrivando, sono arrivato, vado a girare la chiave per mettere in moto, tutto è buttato, un valvole tutto grande in occhio. E mi ha detto, no, l'ho portata alla Fiat per cambiare la cinghia, ha detto che ancora ne ho da fare, ne avevo 80.000 di chilometri, nel libretto c'è scritto a 120.000 chilometri, beh, li si è fasciata la cinghia, la Fiat si sono negati che lui è andato a farsela cambiare, capito? Si sono negati, no, da noi non c'è venuto lì, capito? Da noi non c'è venuto la viuvatu di sa denunzia, chi non ripassava la fabbrica a pagarmi. Cazzo, non ci sono venuto. A 80.000 chilometri ho fatto smontare di mia volontà la cinghia, perché mi avevano detto 120.000 a me, mi pare, una cosa del genere. A 80.000 era lì affilacciata, pronta a fasciarsi nella macchina mia. Anche nella... anche nell'Astra. L'ho cambiata, però mi ha detto che era abbastanza nuova, non era molto rovinata. Dai, comunque c'è sempre meglio cambiare un po', dice, è mangiata, però non più di tanto. E io l'ho cambiata lo stesso, io l'ho cambiata 4 volte nell'altra. Quelle cose di manutenzione bisogna fare, perché sennò poi ti si faccia il motore. Però io di motore non gli ho fatto mai nulla all'Astra, capito? Roba elettrica sì, la centralina che mi è partita ultimamente, ma dopo 14 anni che ce l'avevo. Gianni, qual era quella macchina? Anche se si rompeva la cinghia o la catena, non mi ricordo, bastava mettere in fase il motore e funzionava tutto. La Uno Fire? Sì, mi pare di sì, sì, mi pare che sia quella, la Uno. L'ho avuta io la Uno Fire, a me mi è successo che ci sono praticamente, ho cambiato l'olio e mettevo sempre il CT2000 di olio, in tutte le macchine che ho avuto ho messo sempre il CT2000. Praticamente ho messo l'olio, sono andato a Città Mercato e c'era l'olio CT2000 che costava un bel poco, un bel di meno del rifornitore. Se per dire il rifornitore costava 11 litro, lì costava 8, capito? E ho comprato un bidone da 5 litri e ho cambiato l'olio. Dopo un po' di tempo, cazzo, la macchina si blocca, non voleva partire, cose. Ho chiamato Arzedo, il meccanico. È venuto, mi ha detto, ma questa macchina vuole trainata, non ce la facciamo a farla andare. L'abbiamo trainata, tutto quanto, l'ha messa sul carrello, con le ruote sul carrello di davanti, l'ha portata in officina. Mi telefona e mi fa, perché era molto corretto questo meccanico. Mi fa, signor me, guardi, c'è questo problema, c'è i bicchierini che sono bloccati, ma che olio li ha messo? Le 3CT2000, no, questo non è CT2000. Lui faceva le Alfa Romeo, quindi prendeva i bidoni, le tabulane proprio di olio CT2000, ha detto, guardi, sono andato lì e mi ha detto, c'è una spesa di 500 euro, io non so se la devo fare questa macchina o se... detto, cosa faccio se sta macchina arriva? Me la faccia lo stesso, se no io avviso per correttezza. Beh, cazzo, per sbloccare questi bicchierini ha dovuto mettere il CRC, erano lì bloccati dall'Uzu, l'ha incrostato l'olio, e io l'olio l'avevo cambiato da poco, lui mi ha spiegato che questi di qua che danno a Città Mercato e cose, sono degli oli che non vengono raffinati perché fanno o sciopero gli operai o cose, non passano nei filtri, quindi è tutta la porcheria che c'hanno, se la portano appresso, per cui sì, può essere il 72.000, però è un 72.000 che non è raffinato. diciamo, scarti di produzione, mi seconda scelta, quelli venuti male. E chi lo sa già, dietro non sa mai cosa c'è. E tu ti ricordi il Tamoil, tanti anni fa, quando ha aperto Shan, vendevano le latte di Tamoil, no? Però si diceva che fosse olio rigenerato, cioè olio esausto, rimesso in sesto con procedimenti chimici e poi imbottigliato, tra virgolette, rimesso in giro. Già sfruttato, allucinante. No, ma questo olio qua, lui a me, me l'ha fatto vedere, l'ha aperto e ha detto, l'olio è nuovo, caspita, si vede che è cambiato da poco l'olio. Adesso ti faccio vedere una cosa, adesso prendo col dito un goccio di olio 7000 di quello che ho io e poi ti faccio sentire la viscosità tra una mano e l'altra. Mi ha messo quest'olio nelle dita, mi ha fatto muovere il dito uno sopra l'altro e la viscosità in effetti era molto molto diversa. Eh sì, e allora non è la stessa partita. Te l'ho detto, prima, seconda scelta, terza scelta anche. Va bene, oh, vi devo lasciare, da che qua, se no. Da. Ciao Natalino, Gianni, tutti quelli all'ascolto, dai. Ciao, QRX per me. Ciao Marco, così da abbigliato, dai. No, dobbiamo mangiare, cioè, mamma ne aspetta il piatto, in poche parole, non si muove. Ah, ecco. Vabbè, dai, scendi la poverina, saluta. Avanti, Natalia. Gianni, come si chiamava quella parte che aveva grippato? Hai detto che ci voleva lo sbloccante, un nome che non mi è familiare. Bicchierini li ha chiamati. Tra le valvole so. Ah, bicchierini, ma quello dove scorre l'asta della valvola per caso? Vabbè, dai, no. Non mi ricordo, poi me lo guardo con calma. Dai, ciao, a dopo, ciao. Cerca pistoli, una parte cicosa. Tartarino. Eia, i bicchierini, quelli che scorrono le valvole, aveva ragione Marco, quelli che sono sopra le valvole. E ha detto che quelli lì erano inchiodati, ha dovuto mettere CRC, benzina, di tutto per sbloccare, non riusciva a sbloccarli, proprio inchiodati. Perché quello non è 102.000, ma ti pare che tu puoi pigliare lo zoo da città mercato? Cazzo. Io pure metto sempre Sinti 2000, però rubilo da un rifornitore. Oh. Anche io lo prendevo al rifornitore, ma il giorno sono capitato a città mercato e ho visto che il prezzo era differente.